Radio 24 Reportage. Verso Expo, il Parco Tecnologico Padano, le innovazioni nell'agroalimentare, di Claudia Vanni. A pochi chilometri da Milano, a Lodi, ricerca e impresa si fondono in un polo di eccellenza. È il Parco Tecnologico Padano che unisce laboratori e aziende, portando innovazione nel settore più forte della nostra tradizione, quello agroalimentare. È Gianluca Carenzo, direttore generale del parco, che ci guida alla scoperta della struttura. È un parco scientifico, è inserito all'interno di un contesto più ampio di polo universitario della ricerca. Nel nostro edificio, che è strutturato su 9.000 metri quadrati, ospitiamo diverse realtà operanti nel settore della ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore della bioeconomy, per cui scienze applicate al settore agroalimentare, scienze della vita e settore industriale. Ospitiamo piattaforme tecnologiche, quindi grandi infrastrutture che vengono messe al servizio dei ricercatori e delle imprese, e soprattutto ospitiamo start-up, quindi nuove idee di impresa nel settore agroalimentare e scienze della vita. Da dove nasce l'idea? Dare una possibilità al territorio lodigiano di mantenere la propria competitività nel sistema agroalimentare. Lodi storicamente è una provincia dove l'agroalimentare è nato più di mille anni fa, qui è nato il grano padano, qui sono nate tantissime innovazioni tecnologiche nel settore agroalimentare. Siamo negli anni 2000, per cui il territorio si è interrogato su come poter far mantenere alle proprie imprese, al proprio settore, la stessa competitività di prima. Per cui serviva un luogo dove fare innovazione, quindi dove produrre ricerca scientifica, ricerca praticata e innovazione del settore. Quindi il Parco Tecnologico è il luogo ideale, il luogo che è stato pensato per fare questo. Tutto questo ovviamente ha ripercussioni anche a livello occupazionale. Quanti sono i vostri dipendenti, o comunque sia qual è l'indotto a voi collegato? Allora, all'interno di questa struttura abbiamo circa 150 persone che lavorano, appunto afferenti alle diverse amministrazioni, quindi dell'università, del CNR, del Parco Tecnologico e delle imprese. Nell'intero polo poi ovviamente questo numero si amplia con i ricercatori dell'università, per cui abbiamo il polo molto forte di veterinaria che si sta trasferendo da Milano a Lodi, abbiamo i ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico in un altro edificio, quindi altre 30 persone, per cui un totale di circa ad oggi circa 300 persone operanti nel polo. Qual è invece il giro di affari? Il parco oggi è un network, perché ovviamente oltre alle aziende che sono ospitate qua dentro, il parco ha tantissimi rapporti con aziende del settore che stanno ovviamente al di fuori, quindi sia a livello nazionale che a livello internazionale, con un giro d'affari che oggi è intorno ai 7 milioni di euro. È un settore che guarda al futuro con ottimismo, c'è potenziale di crescita. Ne parlavamo anche ai tavoli Expo delle idee, in cui si parlava di innovazione in agricoltura. Oggi l'Italia ha ancora uno dei pochi settori che sta tenendo, il settore dell'agroalimentare, per cui la piattaforma agricola è un settore che oggi mantiene ancora competitività. Chiaramente ci sono grossi problemi di sostenibilità delle imprese che vanno affrontati nel breve periodo, ma chiaramente è uno, diciamo, delle poche eccellenze italiane sulle quali il paese deve investire. Perché ricorrere al vostro parco tecnologico? I vantaggi sono che noi abbiamo cercato di lavorare non soltanto sul concetto di classico di parco tecnologico, per cui affitto degli spazi, ma proprio sul concetto di integrazione delle competenze, per cui tutti quelli che lavorano con il parco hanno necessità di infrastrutture, strumentazioni, cervelli, know-how, competenze che noi riusciamo in qualche modo a mettere in rete, per cui o all'interno di questa struttura o con il nostro network. Dall'atrio che ci accoglie, nel quale stiamo facendo questa intervista, ci spostiamo all'interno della vostra struttura per andare a conoscere i soggetti coinvolti. Ci avviciniamo un pochino all'ingresso dell'incubatore d'impresa, o acceleratore adesso come lo chiamiamo oggi, per cui all'interno dell'acceleratore noi ospitiamo progetti di impresa che poco per volta crescono, diventano start-up e poi vivono di vita propria all'interno, appunto, degli spazi che noi mettiamo a disposizione. Una grande porta blu, si entra e vediamo una serie di sigle che rappresentano aziende, tante, molte. Sì, questi sono i loghi delle aziende che sono attualmente ospitate all'interno del parco. Abbiamo aziende che lavorano nel settore agricolo, chi lavora nel settore industriale, chi si occupa di nutraceutica, chi si occupa di energia, ma tutte con un unico comune denominatore, che è la tecnologia o la biotecnologia che noi utilizziamo appunto come base per produrre ricerca applicata, innovazione, quindi appunto anche il mercato che serve a queste imprese. Trovate investitori anche dall'estero? Sono principalmente di nazionalità italiana? il mercato delle tecnologie applicate a questo settore è un mercato ormai globale, per cui quello che diciamo ai nostri imprenditori è: partite con un'idea che sviluppiamo localmente, ma che ovviamente da giorno zero deve essere globale, per cui il competitore di una delle nostre aziende, l'incubatore, potrebbe anche essere in Australia piuttosto che negli Stati Uniti. Il mercato dei capitali di rischio, che ovviamente utilizziamo in alcuni casi, invece è probabilmente più locale, nel senso che l'investitore non ama moltissimo spostarsi, o comunque ama tenere sotto controllo i propri investimenti, per cui non è semplicissimo attirare investitori dall'estero su questi progetti. Qui ad esempio quest'anno è partita un'azienda che arriva dagli Stati Uniti, che si chiama Flowmetric. Abbiamo costituito una startup innovativa che si chiama Flowmetric Europe, che appunto ha visto l'investimento dell'azienda americana in un settore che è di punta, che è quello appunto della diagnostica preclinica in ambito farmaceutico, e quindi stiamo sviluppando questa startup qui a Lodi, quindi con il capitale che arriva anche dall'estero in questo caso. Quanto dura la fase di incubatore? Allora, l'incubatore sostanzialmente ha dei contratti di servizi di incubazione che durano da 3 a 6 anni, per cui minimo di 3, massimo di 6 anni. Dopodiché l'azienda sceglie se trasferirsi al di fuori del parco oppure se rimanere all'interno con un contratto di impresa residente. L'incubatore Alimenta aiuta a trasformare le buone idee in un'azienda di successo. È il caso di iPad, nata nel 2010. Giuseppe Durante, responsabile del laboratorio, svela il segreto del loro trionfo. Nel mondo il sistema Plus è un sistema unico che abbiamo ideato noi e sviluppato noi. In che modo aiutate il coltivatore? Con poche centinaia di euro, tra l'altro. È un sistema molto semplice che permette di effettuare le analisi in loco. Semplificando, voi fornite un kit al coltivatore, chiamiamolo così, i risultati arrivano a voi, che li analizzate e individuate qual è il problema. Il coltivatore prepara semplicemente i campioni con dei kit che forniamo noi. Vengono inviati a noi tramite posta normale, non è neanche necessaria una posta prioritaria, perché il materiale può viaggiare in tutta sicurezza a temperatura ambiente. Quindi una volta che noi riceviamo il campione così processato, svolgiamo la vera e propria analisi di biologia molecolare che richiede il personale specializzato. Questo vi permette di lavorare su un mercato internazionale. Grazie alla nostra tecnologia il materiale può viaggiare in totale libertà, perché il patogeno di fatto è disarmato. In questo modo noi possiamo ricevere campioni da qualsiasi parte del mondo. Per esempio abbiamo un cliente in Giappone. Proseguendo il tour nelle strutture del parco, si fanno sempre più intensi i profumi gastronomici. È così che mi imbatto nel laboratorio per la cucina Made in Italy. Scorgo dalle vetrate del corridoio tanti giovani all'opera con farina, sughi e vapori. Sono le classi dell'Istituto di Enogastronomia in Audi a Lodi. Questo lo butto, sì, va bene? Vai a buttare, okay. Quest'acqua e usa sciacqua la bacinella lì e usala ancora. Voi qua che cosa state facendo? Le patate sperimentano l'imprenditoria culinaria nei locali forniti dal parco, come spiega il loro insegnante Michele Madonna. Voi qui come state con la pasta fresca? Siate veloci perché tardi. Principalmente quello che inculco ai ragazzi, che è fondamentale usare uno, prodotti italiani, che secondo me sono i migliori al mondo, prodotti chilometri zero e soprattutto prodotti di stagione. Stare attenti, un occhio alla tracciabilità, che è importantissimo. Noi qui operiamo in questa struttura stupenda, all'avanguardia, dal lunedì al giovedì. Sono 4 classi e le dividiamo, sì, a rotazione, ogni gruppo viene qui. Oggi stiamo facendo della pasta fresca. Noi continuiamo il nostro tour alla scoperta delle aziende. Dopo ritorniamo ad assaggiare le chiacchiere. Assolutamente sì, speriamo bene. Il parco tecnologico aiuta a traghettare le idee di impresa per l'agroalimentare e la salute dal mondo della ricerca fino al mercato, o permette alle aziende che già hanno un loro peso di consolidarsi. È per questo che è entrato a far parte della piattaforma anche BICT, come rivela l'amministratore delegato Roberto Verga. Beh, sicuramente le cose importanti sono la visibilità. Anche l'occhio vuole la sua parte, si usa dire. Commercialmente è importante anche quello. Il cliente deve sentirsi accolto. E se si va in un bugigattolo non è accolto. anche il bar ha la sua importanza. Negli affari, come diceva Pininfarina, i migliori affari li ho fatti sul campo da golf. Bisogna essere rilassati per fare affari, non agitati. Poi abbiamo le competenze sinergiche. Noi abbiamo delle competenze di un certo tipo, il parco ne ha altre. L'unione fa la forza non è solo un modo di dire. E le strutture. Alcune strutture le abbiamo noi, il parco ne ha di rilevanti. Unirle. La parola chiave è unirsi. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.